Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 30 giugno, il sole in regione sorto alle 5.20 e tramonterà alle 21.02. Sabato ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. I titoli. I prati stabili, una ricchezza del nostro territorio che ha bisogno ancora di tutela e valorizzazione. Ne parliamo nel servizio di apertura. Il corsivo del liceo Damiani, che oggi vi riproponiamo, si intitola La ginestra di Leopardi. Per la rubrica del bio, le colture di servizio, che al di là del tornaconto economico, offrono una serie di vantaggi agroambientali. Per il vino in cantina siamo arrivati alle fasi della svinatura, che non sono poi così facili. E l'arice di Malga Campo svetta oggi nella rubrica dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia. Ricetta solo all'apparenza minore, quella delle cartufole squinciate, ovvero patate condite, ma c'è tutto un mondo che le presuppone. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante, con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Giorni fa a Fagagne, al Museo della Civiltà Contadina Chiase Coccello, un gruppo di volontari che si fa chiamare i custodi dei prati stabili hanno affrontato tutti i problemi connessi. Roberto Pizzutti, naturalista e funzionario, ex funzionario regionale nel settore della biodiversità, da sempre si occupa di prati stabili. Qual è lo stato di salute? Lo stato di salute dipende da vari fattori. Rispetto al 2007, in cui è stato fatto un censimento, c'è stata sicuramente una significativa riduzione che deriva da dissodamenti, abbandono e concimazione eccessiva. Queste sono le cose principali, anche se la fantasia per causare la distruzione è abbondante. Quindi abbiamo comunque una superficie rilevante, soprattutto delle formazioni più importanti come i magredi evoluti. Le formazioni umide sono quelle più degradate e abbandonate in genere, però per fortuna ce ne sono ancora limitate e da seguire. Tra la gente dei campi c'è empatia nei confronti dei prati stabili? Alcuni agricoltori sono veramente interessati, ma sono una minoranza. Il grosso è da convincere con sensibilizzazione, che in parte abbiamo fatto noi con la produzione del film Incanto d'erba e urgenza, che per chi lo vuole vedere sarà il 5 luglio ad Artegna, oppure ancora promozione, quella che sta facendo la regione sul discorso filiera del latte, filiera del miele. Ecco, allora qualcosa si può cercare di sensibilizzare. Chi ha prati più belli, devo dire, sono persone che non fanno il mestiere di agricoltori, l'hanno ricevuto dai nonni, sono appassionati di un aspetto storico affettivo. Quelli più intraprendenti in genere non lo vedono bene, perché finora effettivamente è tutto uguale, fieno del massimo valore ambientale nutrizionistico e un fienaccio di una monocoltura come l'erba medica, ecco, non hanno prezzi diversi. Invece bisogna sviluppare metodi di fruizione tipo ruminanti adatti, ma con filiere specifiche. Ecco, lei ha parlato della filiera del latte e la filiera del miele, e quella del fieno, che ormai vale molto poco? Entra nella filiera del latte. Io sto proprio battendo le porte così a Fagagna, dove ci sono tre latterie. Noi abbiamo in gestione un ettaro di prato, e a questi bisogna parlare, cioè dovete fare un prodotto distinguibile che non sia quello che ti vendono nei supermercati, che lo puoi vendere anche più caro per pagare le spese, certo, ma è una cosa diversa. La legge che ho proposto passa 20 anni fa prevedeva proprio tutta una serie di cose che sono state trascurate. Con 20 anni di ritardo adesso dobbiamo correre molto più veloce prima di perderli, questi bei prati. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi riproponiamo La ginestra di Leopardi, in onda il 29 giugno del 1997. Protagonista oggi delle nostre storie è la ginestra. In Friuli è coltivata nei giardini e dà l'impressione di una splendida fiera rinchiusa in gabbia. La ginestra è infatti pianta selvaggia, libera, mediterranea. Sfolgora sui dossi dell'Italia centro-meridionale, nelle isole del Quarnero e in Dalmazia. A Cherso e a Lussino, sugli aspri, sassosi pianori, le ginestre si accavallano come greggi di pecore dal vello d'oro. Lungo la costiera triestina sono rimasti pochi superstiti residui di quella che un tempo era una festa infiammata di gialli, ma il luogo, chiamato le ginestre sul mare, conserva un'antica bellezza. In Grecia, sull'Acropoli di Atene, la ginestra illumina l'abbagliante candore di marmi dell'Eretteo, l'elegante tempietto famoso per il portico delle Cariatidi, dove erano custodite la statua della dea Atena e la tomba del re Cecrope, mitico fondatore della città. Secondo il naturalista romano Plinio il Vecchio, le ceneri della ginestra contengono l'oro. Il giallo raggiante della fioritura l'ha fatta sorgere a simbolo del sole e quindi del suo omologo, del mondo minerale, l'oro, appunto. È una luce solare vegetale, un canto gioioso. Nonostante la sua regale intensità, la sua fulgente bellezza, era considerata il simbolo della modestia e dell'umiltà. Una pianta che, proprio perché cresce in luoghi isolati, ha un alone magico. In alcune favole del nord, le streghe, su scope fatte di ginestra, raggiungono la luna. La tradizione cristiana non la ignora. Alcune popolazioni tedesche e anche mediterranee usano la ginestra per i festoni floreali nel giorno di Pentecoste. Dai fiori, nell'antichità, si ricavava una tintura gialla per lana, canapa e lino. I danni altrui commiserando al cielo, di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola, scrisse Giacomo Leopardi nella canzone più famosa mai dedicata alla ginestra. Testimone vegetale della Pompei scomparsa sotto la lava e i lapilli del Vesuvio, con i suoi cespi solitari che punteggiano il deserto riarso e ornano le campagne dispogliate, la ginestra, per il poeta di Recanati, si fa immagine della permanenza di una natura nemica sulla tragica fragilità dell'uomo e delle sue civiltà. Ma al di là della sconsolata filosofia o dell'ironia per utopiche e irrealizzabili, magnifiche sorti e progressive dell'ode, resta l'accorata grandiosità del paesaggio, cui i cespi di ginestra fanno da folgorante epitaffio. Cristina Micheloni, nella rubrica del biologico, oggi ci parla delle colture di servizio, ovvero quelle colture che non rivestono direttamente valenza economica, bensì di supporto agroambientale. Un concetto per alcuni nuovo, magari solo nella terminologia, colture di servizio. Si tratta di colture, quindi specie vegetali, seminate o trapiantate, che non hanno come scopo una redditività economica diretta, ma sono inserite nei sistemi colturali per esplicare dei servizi ambientali ed anche agronomici. Qualcuno potrebbe obiettare che tutte le colture esplicano dei servizi agroambientali. Si pensa alle leguminose, alla fissazione dell'azoto o alle specie che compongono le siepi e albergano gran biodiversità e frenano pure il vento, limitando l'erosione del suolo. Vero, così come invece non è vero che vengano seminate per motivi non collegati alla redditività, produttività. Lo sono, ma in modo indiretto. Tecnicamente per colture di servizio si intendono quelle che non vengono raccolte e quindi non si vendono, ma danno una mano all'agricoltore attenuando l'impatto sull'ambiente delle pratiche agricole, ma anche semplificandogli la vita e facendogli risparmiare dei soldi. Tanto per essere noiosi, i sovesci sono l'esempio perfetto delle colture di servizio. Non li raccolgo, ma mi danno una mano a ripulire il terreno e a risparmiare sia nei fertilizzanti che nel controllo malerbe. Ma oggi vorrei soffermarmi su un altro modo di rendere servizio, la consociazione di due o più colture dove una non viene raccolta ma si mette al servizio dell'altra per facilitarne la crescita o il raggiungimento di standard qualitativi oppure ancora per ridurre la necessità di intervento da parte dell'agricoltore. Ancora criptico? Vado con un esempio non casuale. Lo sapete quanto insista sulla coltivazione in Friuli e in biologico delle leguminose da granella a uso umano. Ebbene, per il cece una delle difficoltà è la gestione delle infestanti, essendo pianta che non copre completamente il suolo, come, ad esempio, fa la soia. Abbiamo provato a consociare, seminandola assieme, il cece e la camelina, la crucifera di cui vi ho già parlato lo scorso anno. La strategia è che la camelina fa da dama di appoggio al cece, nel senso che fisicamente sostiene lo sviluppo in verticale, evitando che venti e piogge lo allettino, compromettendo lo sviluppo e la raccolta dei semi. Inoltre, copre il terreno velocemente e lascia poca luce ai semi di infestanti, riducendone la possibilità di svilupparsi. Ulteriore innovazione è stato il momento di semina, metà ottobre del 23, usuale per la camelina ma piuttosto inusuale per il cece. La cosa però è stata strategica visto l'andamento meteo dei mesi successivi. Circa 15 giorni fa la camelina ha raggiunto la maturità dei semi, ma verrà sacrificata per portare a buon fine la coltura del cece, nel senso che il cece verrà raccolto, ma la camelina no. È un problema il fatto che i semi di camelina cadano al suolo e divengano potenziali infestanti? No, perché germinano immediatamente e una superficialissima lavorazione, che verrà effettuata dopo la raccolta del cece, eliminerà le plantule. Vi ho incuriositi? Allora venite a vedere come sta andando la prova, il 5 luglio dalle 16 in poi a Rivignano Teor. Dopo la lunga serie di puntate dedicate alla macerazione del pigiato, con il professor Roberto Zironi siamo arrivati in cantina alla fase della svinatura. Una volta che si è raggiunti il livello ottimale di tannini estratti, la macerazione può terminare e si procede con la svinatura, che consiste nel raccogliere il vino che scende spontaneamente per gravità dal fondo del recipiente di macerazione in un recipiente dove si concluderà la fermentazione alcolica e malolattica. Il vino si raccoglie in vasche di grandi dimensioni dove si completano le fermentazioni e successivamente il vino è frazionato nei recipienti di affinamento. Svinando in contenitori di grandi dimensioni si evita il raffreddamento brusco della massa, pregiudizievoli per i processi fermentativi. Inoltre, nei climi freddi o per svinature effettuate nei periodi tardo autunnali, si preferiscono contenitori più coibenti, quali quelli in cemento o in legno. Infine, il controllo analitico effettuato sul numero limitato di contenitori è più semplice. L'affinamento prevede un'interazione tra vino e ossigeno, che può essere garantita soltanto in recipienti porosi di limitate dimensioni. Pertanto, nel periodo tardo autunnale o invernale, il vino è travasato in recipienti con queste caratteristiche. Un protrarsi della conservazione nei contenitori di grandi dimensioni, impermeabili, per effetto della carenza di ossigeno può determinare nel vino un redox basso che porta alla formazione di composti con odore di feccia, di acido solfidrico, cioè dell'odore di uovo marcio, e di mercaptani, dai sentori tipici agli acei. In taluni casi alcuni fattori accidentali suggeriscono di anticipare la svinatura. Frequentemente, specialmente nelle zone calde, si hanno rallentamenti o addirittura blocchi fermentativi che favoriscono lo sviluppo dei batteri lattici che in questo mezzo ricco di zuccheri, oltre all'acido lattico, producono acido acetico. Con la svinatura si elimina una parte rilevante della popolazione di batteri che si trova concentrata nelle vinacee ed una limitata aggiunta di solforosa al mosto vino permette di bloccare l'ulteriore attività batterica. Un'altra situazione in cui la svinatura interrompe precocemente la macerazione è connessa con la vinificazione di uve alterate da diverse malattie della vite. L'alterazione più frequente dell'uva matura è la botitis cinerea e la sua presenza in macerazione può determinare l'estrazione delle molecole caratterizzanti da descrizioni sensoriali di sottobosco, di muffa, di farmacia. Dalle uve con botitis cinerea si estrae inoltre un enzima ossidasi, l'olaccasi, che è molto attivo nella degradazione degli antociani. Per questo motivo nel corso della macerazione deve essere valutata periodicamente la stabilità e l'ossidazione del succo e se questa non è ottimale non è consigliabile prolungare il contatto a solido-liquido. Per controllare l'attività delle laccasi si possono aggiungere al pigiato dei tannini esogeni estratti da varie essenze vegetali per sfruttare sia la loro attività antiossidante che la loro attività complessante della componente proteica dell'enzima. L'ispettore della forestale Dario Di Gallo, che ci segue la rubrica sui grandi alberi, oggi ci parla di un larice esemplare. Casera Campo, nel cuore delle Alpi Carniche, in un intreccio tra i comuni di Ampezzo, Ovaro e Sauris. Qui il Col Gentile, con i suoi 2075 metri, è la vetta principale di questa morbida catena di monti che divide la Val Pesarina dalla conca di Sauris e dalla Valle di Gorto. Dalle sue accessibili cime si gode probabilmente il più bel panorama sulle valli della Carnia, con infiniti dettagli da ammirare. Dense foreste ed estesi pascoli caratterizzano il paesaggio. Le antiche casere punteggiano il verde smeraldo dei prati e nell'aria profumata dai fiori risuonano ancora i campanacci degli armenti. In questo quadro idilliaco descriviamo il larice di Malgacampo, uno degli esemplari più notevoli del nostro territorio. La sua età viene stimata superiore ai 500 anni e la sua altezza sfiora i 30 metri. ma è il possente tronco con 5 metri di circonferenza a rendere questo albero indimenticabile. Il percorso più breve per raggiungerlo parte da Casera Fortia, raggiungibile dalla Teis attraverso la spettacolare Via delle Malghe. Qui giunti, parcheggiamo e si segue verso sud la pista che conduce alle Casere, Valuta e Monteriù, e poi per un sentiero al vecchio edificio di Casera Campo, località circondata da incisioni di pietra e ferro, opera di attuali artisti locali. Il percorso con i suoi saliscendi è piuttosto lungo. Presso il semplice edificio è sufficiente abbassarsi di quota per un centinaio di metri verso nord per incontrare l'albero. Il luogo è magnifico e solenne. Le parole del grande dottore forestale Giovanni Sala descrivono perfettamente l'anima di questo albero. Lassù, sulle Alpi, ai limiti estremi della vegetazione arborea, il larice sembra avere una vita eterna. Pur tormentato dal bestiame, colpito dai fulmini, maltrattato dalle bufere e dalle tempeste, continua a crescere, a resistere, solidamente abbarricato al terreno, con le radici spesse e insinuate nelle fessure della roccia viva. E anche quando un solo ramo costituisce la sua chioma, ridotto così a un troncone mezzo secco, non muore e continua a puntare verso la luce. Cartufulas quinciale, ovvero patate condite, ce ne parla oggi Roberto Zottar, partendo da tutto il mondo che presuppone questa ricetta. Oggi le patate sono un ingrediente imprescindibile della nostra tradizione, ma arrivarono in Friuli appena nel 1765 e furono impiegate per nutrire i cavalli. Le patate faticarono ad entrare in cucina perché qualcuno sosteneva che, non essendo mai citate nella Bibbia, ciò stava a significare che Dio non voleva che gli uomini se ne cibassero. Un ruolo cruciale per la loro diffusione l'ha avuta il francese Antoine Parmentier, farmacista e agronomo, che se ne nutrì mentre era prigioniero dei prussiani durante la guerra dei sette anni. Nel 1671 in Francia vinse un concorso accademico proponendo con coraggio la patata come vegetale sostitutivo in caso di gravi carestie, ciò anche se una vecchia legge francese ne proibiva l'uso alimentare per timore di infezioni. Si narra che per indurre poi i francesi a mangiare patate, Parmentier, in accordo con Re Luigi XV di Borbone, escogitò un furbo stratagemma. Fece presidiare da militari, dall'alba al tramonto, i campi coltivati di patate. I contadini si convinsero di trovarsi quindi di fronte a un vegetale prezioso e cominciarono a rubarlo di notte, cancellando così di fatto 300 anni di maldicenze sul tubero. Tra le molte ricette locali con patate, al ristorante Roma di Tolmezzo negli anni Ottanta si servivano le cartufule squinzades come piatto tipico. Credo però che la preparazione potrebbe essere stata un adattamento carnico del gratin dauphinois, un antico piatto francese a base di patate e latte. Questo gratin trae il nome dal Delfinato, la regione della Francia i cui signori, i conti Dauphiné di Viennois, avevano un delfino come effigie nel loro stemma. Il titolo di delfino e la terra furono venduti dai conti nel 1300 al re di Francia e da quel momento per secoli delfino ha significato l'erede presunto al trono. Nella versione francese moderna del piatto si usa panna e gruviera, ma per le carniche cartufole squinzades sbucciate 8 patate, lavatele, tagliate a fette spesse a mezzo centimetro e sbollentate in acqua salata. Ponetele in una teglia imburrata e cospargetele con un etto di ricotta affumicata grattugiata, versate un bicchiere di latte e infornate a 150 gradi per mezz'ora. Servite quando si sarà formata una bella crosticina dorata e croccante. Sostituendo il latte con panna, la cremosità e il sapore avvolgente renderanno il piatto ideale anche per cene formali. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 21,20 euro il quintale, IVA esclusa. L'orzo tra 15,30 e 15,80. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 2,40 euro il quintale e l'orzo di 1 euro. Movimento nel comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto tra 3,35 e 3,95 euro il chilo IVA esclusa, quelli seconda tra 2,75 e 3,35. Ancora prezzi in rialzo nel settore vitivinicolo da ristallo, con i Bluebell Gamaschi che vengono quotati tra 7,20 e 7,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 5,40 e 6 euro, i frisoni tra 2,40 e 2,90 e i bruni alpini tra 1,70 e 2 euro. Il mercato dei suini invece ha confermato la tendenza a ribasso, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,59 euro il chilo IVA esclusa. I grassi da macello si quotano a 1,85. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone Udine ha recentemente determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli-Venezia Giulia tra 49,51 e 50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, andamento diversificato per gli avicunicoli. Il valore dei poliatera oscilla tra 1,24 e 1,28 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,05 a 3,15, i tacchini maschi da 1,64 a 1,66, le faraone da 3,12 a 3,22, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Livio Stefanuto, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Oggi a termine il mese di giugno e quindi possiamo farne il bilancio meteorologico. È stato un mese che ha riproposto le caratteristiche tipiche di quanto avveniva fino a 20-30 anni fa, quando a giugno si riscontrava una marcata variabilità, frequente instabilità e fasi calde non eccessivamente intense e prolungate. Quindi un mese di transizione tra la primavera e l'estate, che però nel nuovo millennio sempre più frequentemente è invece stato contraddistinto da fasi calde e secche più intense e prolungate. Frequentemente, negli anni scorsi, caldo e siccità anticipata hanno provocato non pochi problemi all'attività agricola e non solo. Con il giugno di quest'anno siamo tornati all'antico, complice anche un maggio eccezionalmente piovoso. È stata proprio la frequenza e l'intensità delle piogge a creare difficoltà al settore, sia per le colture erbacee, sia per la frutticoltura e la vite. Molti sono stati gli episodi temporaleschi, più o meno intensi, poche le giornate di sole pieno, ed anche le giornate particolarmente calde, con massime oltre 30 gradi in pianura, si possono tranquillamente contare sulle dita di una mano. La temperatura media mensile è stata nella norma, anche se da una settimana all'altra la temperatura è cambiata sensibilmente, come avevamo già anticipato la scorsa settimana. La bora piuttosto intensa e prolungata, che ha soffiato sul Golfo di Trieste intorno al 25, ha determinato un raffreddamento superficiale del mare, che è già rientrata, per cui la temperatura media mensile del mare sarà, come spesso succede da anni, superiore alla norma. L'anticiclone presente sul Mediterraneo e che ha mantenuto condizioni di relativa stabilità con aria decisamente calda ha iniziato a ritirarsi verso sud, lasciando spazio a correnti umide sud-occidentali che porteranno un po' di instabilità sulle Alpi. Lunedì una saccatura porterà aria più fredda in quota, che accentuerà l'instabilità, per cui avremo tempo instabile con cielo in genere nuvoloso coperto, probabili rovesci e temporali diffusi, con piogge da abbondanti e intense, più frequente in pianura e in montagna, mentre sulla costa saranno possibili le schiarite più durature con vento da sud moderato, possibile anche qualche temporale forte. E temperature massime in diminuzione. Martedì mattina ci sarà residua nuvolosità sulle zone costiere, mentre in giornata su tutta la regione avremo nuvolosità variabile. Nel pomeriggio sera sarà possibile qualche rovescio sparso sulle prealpi e in pianura. Sulla costa a tratti soffierà vento da nord-est moderato. Anche mercoledì avremo variabilità. Nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia sparsa in montagna e sulla fascia pedemontana. Le temperature massime in pianura saranno sui 28-29 gradi. Per il resto della settimana dovrebbe prevalere tempo stabile su pianura e costa, dove il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre sui monti avremo in genere bel tempo al mattino con il solito rovescio temporale pomeridiano. Nel fine settimana le temperature massime torneranno sopra i 30 gradi. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se il ghiala al chiante dopo misdì è il bon timp alle parfinì, ovvero se il gallo canta nel pomeriggio il bel tempo sta per finire. Coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarti su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita